Filosofica, e la nostra prima puntata parliamo di una della porta. Pensiamo un po' alla porta. Penso un po' alla porta. Vabbè, innanzitutto bisogna dire, insomma, credo che è la prima volta, insomma, che ci ritroviamo a fare una puntata di Radio Nerd non più nel nostro spazio di casa, insomma, il nostro luogo collettivo, ma in uno spazio nuovo che è quello del EMP. E c'è Valerio, insomma, che ci ha ospitato, insomma, lo ringraziamo. Grazie a voi. Un pittore che ci ospita. Ex pittore. Ex pittore. Sporadicamente. Sto dedicandomi a altre forme di espressione, altri media. Esatto. Dove porta una porta che ti importa? Allora, io... Ho pensato questa cosa qua. Dove porta una porta che mi importa? E ho fatto una specie di viaggio, perché ho aperto questa porta e mi sono trovato nel futuro. Tipo nel futuro, in una specie di convegno, come tipo adesso, però più istituzionale, così, in cui si parlava della musica estemporanea. Che, appunto, la nostra radio si chiama Radio Ned perché viene da un'etichetta che è stata fondata nel 2006, che si chiama, appunto, nostra etichetta discografica Ned, e che è stata fondata da Paolo Sinigallia e altre persone, insomma, con cui noi collaboriamo da un po' di anni ormai, e abbiamo fatto vari progetti, insomma, ed è il nostro luogo collettivo dove di solito ci ritroviamo per fare musica. Ora, io mi sono ritrovato nel futuro, quindi nel 2050, io ho 20 anni, 22 anni, e tutti gli altri sono un po' più vecchi di me, sono un po' più anziani, allora, se vuoi. Ma sono io più giovani di te, gli altri. No, per trovare la parola giusta aspetteremo 20 anni, ce la troverai tu fra 20 anni, esatto, la parola, sì, giusta. Esatto, sì. Che probabilmente durerete più di me, insomma. E, appunto, e mi sono ritrovato nel 2050, in cui alla fine sono rimasto l'unico superstite di questo gruppo. No? Non vorrei renderla troppo macabra come racconto, no, però. Bellissimo. E mi chiedono di parlare di che cos'è la musica estemporanea, cos'è stato Ned, che cosa è successo, insomma. E poi nel frattempo, dal 2015 adesso al 2050, sono successe tantissime cose, cioè c'è stata tipo la quinta guerra mondiale, c'è ancora Berlusconi, sono successe un sacco di cose, insomma, o non sono successe un sacco di cose, almeno, perché appunto c'è ancora bisogno di parlare della musica estemporanea, che cosa, che musica è? Una musica che, se io dovessi raccontare a questo convegno che cos'è la musica estemporanea, mi viene in mente tipo una cosa che è successa. Ah, come me l'ha descritta Paolo Sinigaglia, che è il fondatore di questo, di questa etichetta, che lui mi ha detto, lui era un compositore di musica contemporanea, quindi quella musica insomma che ha ricercato è andato nella strada della composizione in maniera molto approfondita, anche molto, secondo me anche molto inutile, però non è molto inutile, e mi ha detto, a un certo punto io mi sono reso conto che io stavo componendo musica contemporanea e mi sono reso conto che la musica estemporanea, che significa fare musica alla qualunque, cioè quindi senza forma, senza quello che viene al momento, insomma, tra, quindi è l'interazione tra le persone che si incontrano in quel momento, aveva lo stesso risultato della musica contemporanea. E quindi si è dedicato alla musica estemporanea, invece che andare nella musica contemporanea e dover aspettare, che ne so, 3 anni per fare una composizione che magari in mezz'ora con una boccia di vino tra amici si poteva fare semplicemente. E quindi mi son detto effettivamente che la musica contemporanea significa musica di oggi, di adesso, di questo momento, di quando siamo adesso, noi viviamo nella contemporaneità, insomma, quindi ci è contemporanea. E io pensavo, cioè, nel 2050 dire musica contemporanea sarebbe assurdo, perché cioè sono passati già 60 anni, 70 anni dalla musica contemporanea, quindi cioè, non può essere, non si può chiamare così, insomma, l'hanno chiamato così, quindi è artificiosa, non funziona, insomma. Mentre la musica estemporanea, che è l'opposto, cioè musica senza tempo, perché non ha tempo, estemporanea, insomma, si può dire in qualsiasi momento storico, 60 anni, cioè 300 anni, un secolo, insomma. E che cosa significa questo? Che forse, insomma, è la, un po' l'entità essenziale della, del, più che della musica, del suono, quindi che il suono ha un valore anche senza la forma che gli è stato costruito attorno negli ultimi secoli, insomma, a partire, insomma, sinfonie, questo insomma ha avuto un valore storico e fino a che a un certo punto non si è, si è tutto rivoltato come un calzino, forse. E questa è la, dove mi ha portato almeno la, una porta che mi importa. Bello. Nel senso che è molto divertente iniziare la prima puntata, un primo nostro incontro in cui io ho scelto degli oggetti, volevo scegliere degli oggetti, questa volta la porta, e in cui non c'è un esperto, non è che io sono qua perché la so più lunga di voi altri sulla porta, e tutti sappiamo, abbiamo incontrato porte nella nostra vita. È molto divertente aver iniziato questa puntata con una lunga digressione, però adesso andiamo in merito alla porta. E porta come ecco, perfetto, suonano alla porta. Chi sarà? Il terrore di Spot del campanello è dato dall'incantesimo della porta. Sì. C'è qualcuno chiuso fuori e c'è qualcuno chiuso dentro. E ora il dramma della porta. Esatto. Il dramma totale. Sì. Praticamente diventa teatro. Praticamente stiamo assistendo alla funzione della porta. Che a ben pensarci è bruttissimo. Perché anche lì è una barriera. Eh sì. Cosa che in natura non c'è. Beh, ce le creiamo le barriere. Com'è? Siamo bravissimi a crearci le barriere. Ma infatti l'ha creata l'uomo. No, no, noi con noi stessi proprio. Beh, l'uomo ha anche creato il viaggio, insomma, l'attraversamento. Credo. Non credo sia stato. Come termine di interesse. Attraversare la porta. Attraversare qualcosa, insomma. Come interesse per attraversare, e quindi ovviamente si crea anche questo. Ci siamo raccontati questa cosa, no? Ci siamo proprio è proprio un archetipo, no? Nostro, no? Quello del viaggio, no? Quindi dell'attraversamento. Infatti quello che affascina è l'orizzonte libero del deserto e del mare, non ha porte. Affascina, no? Anche se tu dicevi che la natura non crea porte, però per esempio non so, gli animali tipo i tassi, i ricci, questa gente che abita un po' nelle, nei sottoboschi, questi animali qua si aprono. Per esempio i tassi di solito quando vanno a bere ci hanno tutti dei corridoi all'interno dei cespugli, quindi in realtà anche... Ma diciamo, sono percorsi. Sì, però anche ecco, la natura crea delle porte se non altro aperte, però dei passaggi, ecco. Certo non c'è la porta con la maniglia, il campanello, e la chiave, la serratura. Infatti, l'ha pensata solo l'uomo. Sì. Forse perché è chiusa la paura di tutto ciò che è esterno. La porta c'era. Poi ci sono tanti tipi di porta, quindi c'è quella chiusa che non si può aprire, c'è quella aperta, c'è una porta che esiste però aperta, insomma. E non serve, infatti. Proprio perché è aperta. Esatto. È aperta. Però si potrebbe sempre chiudere. Se è aperta, si potrebbe sempre chiudere una porta aperta. Ma è sempre un concetto di chiusura. Eh sì, sì. Beh, di protezione, di chiusura, di esclusione. Esatto, direi che non ha grandi significati positivi. E invece allora quali sono quelli positivi? E quando la trovi aperta. Quando la trovi aperta. Quando la apri tu. Quando la apri tu. No, così c'è anche la sigla per e quando la apre qualcun altro per te? Per farti entrare o per farti uscire, cioè ha sempre una desinenza dubbia. Puoi entrare e potresti non uscire più. Hai parlato di paura prima, no? Quindi la leghi alla paura, la porta. Beh, è un'esclusione, sì, un appartarsi. No, no, ecco, ma hai parlato di paura, hai detto proprio il termine paura, no? È la paura che ti suggerisce questo? No, la poca apertura di chi sta dietro alla porta. Sì, la allora, poca curiosità, la poca. Ecco, allora un altro termine è curiosità. Prima hai detto sì, chi sta dietro, stiamo parlando di quella persona. Quella persona si mette dietro, si nasconde, si chiude, si chiude per paura. Adesso, oltre alla paura, hai aggiunto anche poca curiosità. Ok. Paura e poca curiosità. Credo. Beh, perché quando uno ha paura è poco curioso in genere. Secondo me invece non è solo paura, forse per correttezza, per essere in tranquillità, no? Perché tu quando chiudi la stanza tua senti un po' che tutto questo diciamo interno di stanza è tua. Mm. Quando è aperta forse un gatto passa o che ne so. Qualcuno può entrare anche se con permesso o senza permesso, no? Secondo me certo. Può essere anche questo concetto dietro. Può essere anche concentrazione. Sì, raccoglimento. Raccoglimento. Un momento tuo in cui sei tu, ma non necessariamente vuol dire che sei chiuso verso l'esterno o che non hai curiosità. Sì. Magari per un momento hai bisogno di essere raccolto, il momento dopo apri ed esci. Con quello che hai elaborato nel momento di raccoglimento. Ma infatti noi abbiamo deciso di chiudere la porta oggi. Sì, prima quando guardate la differenza è questa. Esatto. Per il rumore. La differenza è questa. Rumore l'ha chiamato, ma potremmo anche chiamarlo suono. Prima quando la porta era aperta entravano i suoni, no? Della strada, della città, dell'esterno, no? Chiudendola noi abbiamo escluso questi suoni. È una scelta. Una scelta, appunto, magari se li senti come rumori, li chiudi, se li senti invece come suoni belli, come cosa, probabilmente ti viene da andare lì ad aprire. No, ma perché mi hai chiuso questi suoni? C'è un concerto, che ne so io. C'è quello che piace a te dietro la porta, perché la chiudi? lasciami vedere quello, lasciami sentire quello che c'è. Ma perché c'era la voce che volevamo sentire. Comunque io l'ultima volta ho visto un video di John Cage che parlava di voce e lui diceva che sempre in voce c'è, perché comunque se tu chiudi la porta o no, non lo so, è suono di tuo respira, suono di... Che il suono non, non esiste il silenzio. E infatti, sì, sì, che il silenzio in natura è una cosa che noi abbiamo inventato. Neanche sulla terra esiste il silenzio. No. Neanche se ti chiudi... No, sì, è una cosa... Ti sbindi. Sono nel vuoto in questo silenzio. Non spazio. Sì. Sì, che è stata creata artificialmente una stanza. Se no, senti il tuo bacio del cuore, senti sì, una camera blindata, senti i tuoi i rumori organici. E ecco, comunque silenzio non c'è. Questa cosa, ecco, il silenzio c'è oppure non c'è il silenzio, è un desiderio, no? Quello allora appunto l'abbiamo inventato, ma forse c'è anche un desiderio dietro, no? Quello di arrivare al punto, di conoscere talmente il suono, di approfondire talmente il suono da poter arrivare anche a un silenzio, suono e silenzio, no? Non ci siamo arrivati, no, cerchiamo di inventare, sappiamo che nello spazio c'è questa possibilità. Ecco, anche lì, allora, no? Mi sembra una cosa più legata a un raccoglimento, no? C'è un musicista che inventa il silenzio, no? La pausa, no? Nella musica, proprio per mettere fuori, cioè da una parte c'è il suono, dall'altra c'è il silenzio, no? Quindi un limite, ecco, la porta è anche un limite, un confine, no? Un confine fra qua e là, fra su e giù, fra dentro e fuori, fra, no? Ecco, è un confine, è una linea di demarcazione. Visto che si parla di suoni, la porta potrebbe essere pensata anche come un vero e proprio strumento musicale, no? Perché può battere, quindi è una specie di tamburo, di percussione, può cigolare. Quindi... Fare vortici di aria. Certo, poi cosa potrebbe fare anche? Beh, con le chiavi, per esempio, c'è un rumore metallico, quindi potrebbe... E poi ci si può sbizzarrire sui campanelli, perché ce ne sono di tantissimi tipi, no? Adesso, una volta c'era... Non so, mio nonno aveva un campanello bellissimo, erano due tubi di metallo, aveva un suono molto dolcissimo, ricordo. E poi ci sono i campanelli più banalotti, sembrano biciclette, quindi in sé anche la porta può essere uno strumento, se gli togliamo proprio tutta la funzione che può... Una porta sonora, diciamo. Poi ci sono anche dei vestiti di porta, una porta scorrevole, una porta basculante, una porta... Sì, è vero. Ognuna fa un suono diverso. Esatto. Questo bel libro che io ho non so che è pittura, che è quello della porta, mette da un grande stimolo, no? E dice, quando nasce il borgo, le porte fanno parte delle mura della città per difendersi dai nemici esterni. Nella società odierna le porte sono interne, tipo le porte delle banche, le porte dei negozi, le porte delle case. Ognuno si protegge per fatti suoi. Qui sono barriere, blindature per gli stessi abitanti del borgo, che adesso è città metropoli. Quindi c'è un cambiamento fondamentale. No? Il riconoscimento forse dell'individuo. Prima la comunità era tutta un po' più coesa, adesso sempre più individualista. Prima c'era, nascendo piccola, si conosceva tutti, c'era una specie di rapporto di fiducia, di conoscenza, no? Poi man mano che la città si estende, deve difendersi da se stessa, gli individui che stanno all'interno, quindi nascono differenze sociali, economiche, quindi anche le blindature. Il problema della pace, forse. Quando insomma non hai più nemici, insomma, comincia a rivolgerti a allora chi ti sta sopra, insomma. Sì, se ci fosse un nemico probabilmente molte porte sarebbero aperte nella città, perché tutti saremmo più coesi per affrontare un nemico comune, per avere una sorta di complicità, solidarietà e di superamento di certe barriere umane. Quindi certo, sì. Per il cambiamento. Qui a Roma si sta diffondendo una leggenda metropolitana che io non ho verificato appositamente, perché è bello che sia una sorta di leggenda, non si sa bene, però sembra che ci sia un condominio, un complesso, in cui i condomini hanno deciso di non chiudere più le porte. E si sentono, si vede così, uniti tra loro, non so, oppure un esperimento sociale, chissà. Hanno deciso di non chiudere le porte, chiudono quella portone giù, però nelle varie appartamenti no, non chiudono più questa porta. E niente, è un'idea strana. Io, per esempio, non dormirei tranquillo con la... Certo. Cioè, per dire, no, ma non farei, non so, ma tante cose non farei più in casa mia se io sapessi di avere la porta aperta, no? Però quando tu chiudi la porta della tua stanza, ti chiudi con i tuoi mostri dentro. Ecco. E puoi lasciarli fuori. È un'illusione, no? Questa è una cosa abbastanza risaputa, no? Che abbiamo l'illusione di chiudere fuori i problemi, le angosce, i nostri conflitti risolti. Quindi chiudere la porta ai rapporti con altre persone, certo. Mentre in realtà tu stai peggiorando la situazione, perché chiudendo quella porta non fai altro che alimentare questi tuoi mostri dentro, la tua solitudine. Beh sì, ma anche per dei, non so, adesso che è estate magari io giro in casa in mutande, tipo. Ecco, se avessi la porta aperta non lo farei. Vabbè, è un problema di fiducia, secondo me, nel senso sì, che se tu sai, cioè, che tutti hanno la porta aperta, che vuol dire nessuno ti si infila in casa senza bussarti, no? Certo. Invece per esempio all'estero non c'è questo. Infatti in Francia adesso tutti sono nudi, tutti sono aperti. Esatto. Io sono stato a Bruxelles. Una cosa. Sono stato a Bruxelles in un appartamento al terzo piano con una grandissima vetrata, anche noi con poca luce, non ne ho, perché sono molte vetrate. E chiudevo continuamente le tende, una persona con cui stavo che era di là, detto, ma cosa fai? Beh, no, mi vedono, e allora? Dice, tu sei, cioè, non, vabbè, non è vietato, non è osceno, no, stai a casa tua. E anche in Olanda sono così completamente diversi. Un'altra mentalità. E in Africa invece non ci sono tante porte, quindi anche il suono del campanello non c'è, quindi molto spesso, cioè sempre... Esatto. Per dire entro, posso entrare, è un schiocco di mani. Vedi, è semplice, può essere un gesto di avviso, no? Sì. Infatti mi chiedevo come, io ho frequentato un paesino una volta che lontano dalla città, in cui c'erano tutte le porte, avevano campanelli e tutto quanto, però di solito quando uno andava a una casa di un altro gli bussava alla finestra. Oppure sulla porta non usavano mai il campanello, neanche il citofono. Il citofono, per esempio, urlavano da giù. Nei paesi. E quindi campanello. Vieni! Sì, sì, così. Corri. Sì, per esempio, nel mio paese Iran, no? Perché siamo più religiosi, no? Gli uomini quando vogliono entrare devono prima fare così. Così un po', che io ci sto, strazio, sì. Eh sì, e poi tutte le donne vanno a prendere un po' vero, così. Bello. Sì, il nostro uomo è venuto. Eh sì, ognuno in cultura ha una cosa diversa. Allora, era interessante la cosa che dicevi all'inizio, che nessuno è specializzato in porte. Non è che, soprattutto non sarebbe interessante, cioè se uno cominciasse a parlare di serrature, di tecnicismi, insomma. Noi, cioè, esatto, sì. Sì, ma che non è interessante avere... Ci vuole uno specialista come ospite. È che non l'abbiamo trovato. C'è altro cosa per parlare questa sera? Sulle serrature. I cardi, specialista. Avevo chiesto al fabbro che era venuto a farmi la serratura lì, ma... Di partecipare al... Sì, ha detto... Ha declinato, insomma, fosse una cosa... Certo. Sì, non si è sentito su altro. Visto che oggi abbiamo la possibilità di... vedere, di sapere tutto continuamente, no? Ci manca un termine, no? Il significato di un termine, andiamo subito su internet a guardare il significato, l'origine etimologica, eccetera. Poco tempo fa ho forse scoperto, forse riscoperto, non lo so, dopo essermelo dimenticato, il significato di gangheri, no? Vado fuori dai gangheri. E sono gli stipiti, sono i cosi della porta. Sono i cardini. I cardini della porta. Che tutti diciamo senza sapere che cosa. Invece sono quelli, no? È la porta che è uscita dai gangheri. Esatto, no? Quindi andare fuori dai gangheri è quando la porta. E quando esce la porta. No, dice, apri la porta, chiudi la porta. No, la porta si rompe i coglioni e esce lei, o entra lei a quel punto. Certo. Cioè, proprio esce dai gangheri. Mi fai uscire dai gangheri. Se la porta che esce lei. Basta, ma io stasera esco, ma avete rotto i coglioni tutti. Sì, è vero così. Può essere. Eccola qua, la porta. Quindi cambia dimensione. Passa la soglia. Soglia immaginaria. Ah, a proposito. Puoi leggerci quella cosa? Quale? Quella che abbiamo letto l'altra volta di Duchamp. Sta leggendo la porta di Duchamp. La porta di Duchamp. Era interessante questa cosa. Che ci ha dato l'idea di fare questa cosa sulla porta, no? Mi sembra. No, ce l'avevamo prima, è che siamo venuti qua per proporle e lui aveva subito il libro, che è una coincidenza. Ah, ecco, vedi. Allora, la porta con la sua ante in movimento produce continui spostamenti d'aria, è come l'ala della farfalla che sbattendo in un luogo dell'occidente può provocare un uragano in oriente, anch'essa ha effetti a lunga distanza, dalla semplice funzione alla complessità simbolica del suo aprire e chiudere, spazi vertiginosi di senso, animandosi, come diremo, quasi in maniera organica, rifiutando alla stessa stregua degli altri oggetti e mobili della casa di essere semplice cosa. La porta assume così una connotazione estetica, condivisa con tutto l'esistente, fino alla sparizione nella postmodernità del suo significato simbolico di soglia e confine rituale. Qualsiasi analisi del significato concettuale della porta non può che partire dal momento storico in cui viene aperta dal gesto scardinante di Marcel Duchamp, fin troppo nota, né aperta né chiusa, porte 11 Roulare del 1927, la porta realizzata da Duchamp nella sua abitazione parigina, è divenuta automaticamente un objet ouvert modificato. Consiste in un lavoro molto artigianale, ma perfettamente adeguato al tono dimesso dell'appartamento, come documenta l'unica fotografia che abbiamo, che è quella, la sua casa, il suo appartamento. La foto a colori permette di esaltare altri particolari, un bicchiere, un pane, eccetera. Una nonchalance questa che sta a dimostrare che l'arte e l'artista non si occupano di arredamento e di reali funzioni, perché manca la serratura alla porta. Duchamp, data la ristrettezza dell'appartamento, abitato in quegli anni a Parigi, è costretto a ricorrere a uno stratagemma costruttivo per risolvere una situazione di privacy familiare. Dopo che la sua compagna, uscita dal bagno, che è a destra, di qua è il salotto, a destra è il bagno e quella lì in fondo è la camera da letto. Lei, uscita dal bagno svestita, in procinto di andare in camera da letto, si trovò di fronte nel salotto un ospite inaspettato. Studio, camera da letto e bagno, tre depositi di idee per opere che hanno avuto sempre la funzione in tutta la produzione duchampiana di scardinare ogni aspetto dell'abitare nel senso comune. Un'unica anta, incernierata esattamente nell'angolo di due paretine di legno, permette di chiudere o l'una o l'altra delle due porte adiacenti che vi sono inserite. Quando è chiusa la porta tra la camera e lo studio, rimane aperta quella tra la camera e il bagno, ma non si tratta soltanto di un espediente tecnico che permette di mettere in relazione veloce diversi spazi della casa. Duchamp ne fa una macchina simbolica, piena di significati imprevisti. La porta appare infatti contemporaneamente aperta e chiusa, perché quando è chiusa apre un'altra parte. È aperta e chiusa contemporaneamente. Esatto, diventa un ossimoro. No, ma vedrai com'è la conclusione. A seconda di come la si voglia percepire. In effetti si tratta di una doppia porta, agita per mezzo di un'unica anta. Il suo movimento produce un moto vorticoso, un'improvvisa corrente d'aria che collega tra loro vasi vani, altrimenti incomunicanti. L'unica immagine fotografica che possediamo ci fa infatti vedere l'anta socchiusa o semiaperta, fermate in una posizione intermedia tra le due pareti, in cui si aprono in attesa di definirsi le due porte. Ecco. Okay. Quindi questa posizione fastidiosa, indefinita, fastidiosa. Non risolve il problema della privacy questa cosa. Non risolve. Parte, comunque lei è visibile, però togliendo, cioè mettendo due porte, tu hai soltanto un movimento in più, inutile, di aprire questa e chiuderla. Poi passi dal salotto, apri l'altra e perché la legge. Invece con quella fai la stessa cosa che fai da solo. Quello è il genio, no? Perché non si può risolvere il problema della privacy. Esatto. Desideri comunicare il bagno con la camera letto. Non si può risolvere il problema. Non si può risolvere il problema della privacy. Non si può risolvere il problema della privacy. Appunto, prendiamo una porta gigante, ci chiudiamo in casa e basta, insomma, non usciamo più, non contattiamo nessuno. Mettiamo la porta e non mettiamo tutta la casa. Mettiamo l'edificio intorno. Perdi le chiavi di casa, resti fuori, capisci? Dopo aver fatto tutta sta baradana, eccetera, perdi le fuori, sei fuori ancora e perdi le chiavi. Bellissimo. Ho pensato che la porta però ha anche una funzione di presentazione, è un po' come mostrami la porta di casa tua e ti dirò chi sei in qualche modo, perché... intanto i grandi castelli si facevano delle super porte, dei portoni giganteschi. Oppure io ricordo un tipo in Isola d'Elba che si era fatto la villetta e si era fatto sulla porta di casa enorme in ferro battuto il suo nome, per esempio Mario enorme. Io avevo realizzato una porta in uno studio dove lavoravo, che era folle, perché c'erano degli animali morti, mummificati, un uccellino e c'era un geco anche, ed era tutta fatta di teche, di plexiglass. Mm-hmm. Poi c'erano delle immagini pittoriche, astratte e figurative. Poi c'era questo ramo di un'edera dove c'era il geco imbalsamato con tutte le lampadine intorno, cioè è una porta proprio ricca di... Fuori o dentro questa? È la porta della mia camera, che faceva parte di questo grande studio di 400 metri, io ho una camera di 35 metri, e c'era questo archetto, e io non so perché ho fatto questa porta, non avevo bisogno assoluto, anche perché la porta era abbastanza, filtrava abbastanza il suono, non era... massiccia, era vuota praticamente, era piena di oggetti, di lampadine, tutte queste cose strane. Sì, quindi lì c'era abbastanza... L'ho conservata questa porta. Ah sì? Sì, poi l'ho tolta, quando sono andato via l'ho... È strano la parola porta vuota. Porta vuota. Vuota. È vero. Ti importa? No, un'opera che si muoveva sui cardini, come un quadro, no? Un'installazione, più un'installazione. Ma, poi se era di plexiglass probabilmente era trasparente. In parte. Quindi alla fine imitava una porta, non aveva la funzione veramente, perché non aveva una chiave, poi si vedeva attraverso. E quindi ecco, non c'era più da spiarne il buco della serratura. No, non c'era la serratura che si poteva vedere attraverso il plexiglass. Ma quindi potevano essere i mostri tuoi interiori, è quasi una tua presentazione. Una presentazione di te stesso, come volevi. Sì. Era forse proprio il concentrato di tutti i miei mostri con la porta. Più di quanto abbia fatto tutti i miei quadri. Ah, ecco. Quindi li hai messi tutti nella porta. Cioè, no? Sì. Anziché chiuderla la porta, li hai messi lì. Hai usato questa la porta. E com'è che nel è interessante, no, sai perché? Perché la porta, dicevo, è un confine, io faccio già abbastanza l'idea questa di confine fra dentro e fuori, quello spazio. In realtà anche noi, sia che siamo dentro sia che siamo fuori, comunque siamo sempre sul confine, cioè ci proviamo, no? A chiuderci dentro e a chiuderci fuori, ma insomma la nostra esistenza comunque è sempre quella sul confine. Allora tu ti sei messo, cioè ti sei messo i tuoi mostri assieme a te nel, cioè gli hai dato la loro posizione giusta, che è la tua, che è la stessa tua, ecco, mi sembra, no? Sul confine, assieme a te, lì siete tutti insieme, tutti sulla stessa barca. Sì, forse c'era proprio attraversare questa porta, voleva dire in qualche modo abbandonando lo studio, abbandonare i mostri, forse inconsciamente. Lasciarli lì, sulla porta, sul confine, quando tu te ne... Ok, è vero. Ma invece sulla mia porta, che è problematica, sembra molto problematica, perché tu ci metti l'olio, ci metti qualsiasi cosa, ma per aprirla c'è sempre il rischio che resti fuori, no? Che resti fuori, sì, esatto. Resti fuori in casa. Dubbio se entri o non entri. Sì. Sì. Insomma... Sì, ti ho lasciato questa eredità. Esatto, perché è casa di sua, insomma, che mi ha lasciato, e quindi mi ha lasciato anche un problema, ecco, di questa casa. Perfetto. Cioè, devo faticare per entrarci ogni volta. Quindi la porta un po' simboleggia anche la casa, come è fatta dentro. La riflette, sì. Una casa problematica. E invece casa tua come sta? La porta, sì, anche sì, è tutta mezza rotta, sì, da, sono andato di quindi sei te male in quella, sì, tu... perché stavo pensando, in realtà la casa è la casa che riflette, cioè la casa, la nostra casa di ciascuno di noi è il nostro pensiero, no? È il modo in cui pensiamo, no? È un nostro modo, no? È una nostra espressione. Per cui appunto io ti ho dato in eredità il mio modo, è mancato quello. E ti ho provato a chiedere, ma posso togliere le tue fotografie almeno? No, le devi tenere così ti ricordi che è casa mia. E quindi c'ho ancora le sue fotografie appese, insieme alle mie, insomma. Il modo in cui sentiamo, direi, io, che pensiamo. Ecco, che sentiamo, infatti era sbagliata la parola, che sentiamo, perché è un sentire, esatto. E invece casa vostra, la porta di casa vostra com'è? La porta dice quella proprio che dà sul pianerottolo? Sì. Ma la porta di casa mia era una porta marrone, bruttacchia, eccetera. Io l'ho tutta ricoperta dall'interno di tutti i fogli scritti. È diventata una specie di... Di decoupage. Sì, da una parte sembra un po' una gabbia di matti, sai, le volte imbottite che... Con i segni di quanto gli sta ancora dentro. Però è carina perché è più calda, perché c'era sto marrone di simil legno che era veramente triste. Invece adesso è diventata l'interno, è diventata una parte dell'arredamento, cioè è diventata parte del resto. Però, quindi la parete interna e la parete esterna sono completamente diverse. Della porta? Sì, sì, l'esterno è rimasto il marrone. E questa, cioè adesso c'è nel design moderno delle case questa mania di fare le porte che sembrano un muro, cioè che non vedi che è una porta. E poi scorrevole. No, anche abbattente, però che quando la chiudi è proprio della stessa, mi dicevano, colore, ma anche della stessa... Questa è una tendenza dell'architettura, del design, cioè non si deve vedere il lavoro, il funzionamento delle cose. Il lavoro? Non si deve vedere il funzionamento delle cose, cioè non si deve vedere i cavi in questo caso. Ah, ecco, infatti. È tutta una tendenza globale questa. Tu prendi le sedie moderne, non si vedono i viti, i bulloni, quindi una sedia vintage invece si vedono. È tutto fuso, è tutto... immodificabile negli oggetti moderni del design, perché vedere il lavoro è antiestetico, mentre invece è assolutamente estetico. Sì, è curiosa come posizione, perché cioè il bullone è questo tanto estetico, la vite c'ha il coprivite, ma se tu monti un box doccia c'ha delle sulle viti lungo l'asse c'ha delle capsule. Ah, sì. Che per non far vedere la vite, come dire, non devi vedere come è costruito perché è antiestetico. Invece io trovo bellissimo vedere come è costruito, perché è quello il senso dell'umanità che si sta perdendo. Cioè, è quasi un tabù vedere le cose come sono costruite, perché non deve essere visto il lavoro dell'artigiano come fosse una cosa negativa. È come se volessero far diventare tutte le cose un po' magiche, no? Che si muovono, esatto, senza... Magiche. Tu capisci? Quando vuoi aprire qualcosa, devi un po' studiarla, perché si apre quasi per magia, per scorrimento, per esempio, no? Sì, esatto. Non c'ha più i tasti, sta sopra i tasti, è tutto nascosto. I tasti sono illuminati, non sono più fisici, non si vede più il tasto della televisione, si vede il simbolo luminoso. Anche le porte stanno seguendo questa tendenza. Questa tendenza, sì, la sparizione della porta, la funzione rimane, no? Ma l'oggetto sta scomparendo. Ma poi lo sai che non ci sono più gli interruttori, che uno cambia la domotica, i sensori, che sono molti ristoranti, il bagno, no? Che c'è la luce, sì. Quindi la porta potrebbe essere un animale in pericolo di estinzione come oggetto. No, la porta è come funzione, no, come oggetto sì. Come oggetto, sì. Anzi, come funzione sempre di più. Sempre di più, sì. Probabilmente esistono delle soglie senza porta che ti fulminano. Cioè tu vuoi entrare in una banca di notte. Ti danno la scossa come le mucche. Ti danno una scossa ma senza porta. Come le tue notte con il calagino che ti spara le gambe. Ma infatti mi raccontava proprio l'altro giorno questa ragazza brasiliana che vive nel centro di San Paolo, nella zona più ricca di San Paolo, in Brasile, e che c'ha una casetta su due piani, tipo quelli di campagna, però in mezzo a San Paolo, quindi in piena città, e con le mura di cemento alte come la casa e sopra il filo spinato elettrificato. E in più dentro la casa, che è una casa, in più ci sono delle scale che portano alle camere da letto. La scala c'ha una porta blindata che tu ti metti il codice. Cioè, quindi sono proprio. E non so se si sentano protetti, insomma, così. Io non mi sentirei protetto, insomma, anzi, penserei tutto il giorno a quando è che vengono questi cazzi di ladri, vengono per spesi i soldi, giustamente. E si friggono sopra. Esatto. Tipo quando senti le zanzare che vanno contro. Ma è più vita, una vita di uno che vive senza porta o uno che è pieno di porte, di protezione. Nel profondo dell'umanità di una persona, ma nella sua felicità. Dipende dalla vita e dalla porta, è una vita che si avvita come una vite, e quindi ogni vita è diversa da un'altra vita. Quindi una persona ricca dipende dalle porte, ricca e famosa, perché senza le porte sarebbe alla merce di tutti quei datori possibili. Beh sì, che ha grandi ricchezze probabilmente. Forse è felice una persona, pure più felice uno che vive senza le porte, probabilmente la persona illuminata, che sì, riesce, in qualche modo è riuscito a eliminare questa barriera tra sé e gli altri. No. Per esempio, ma è una barriera che però esiste comunque fisicamente, quindi non so, cioè forse sarebbe un po' troppo artificioso. Sorte! Togliere insomma questa barriera che abbiamo, appunto come io sono un corpo, un corpo. Entrambi però abbiamo la coscienza di essere due corpi differenti dall'ambiente in cui che è circostante a noi, insomma, però come organismi differenti. È questo che c'è negli uomini, insomma. C'è nessun altro animale comunque. Che proprio quello che c'è negli uomini è che ci sentiamo differenti da un ambiente circostante e capaci di trasformarlo, per esempio. Quindi insomma, arrivare addirittura a eliminare la nostra diversità con l'ambiente, con le altre uomini, insomma, forse un po' esagerato, artificioso, non lo so, cioè forse è un po' bello da pensare, ottimistico. Sì. Beh, utopistico mi sembra, sì, insomma. Cioè non ci possiamo unire in un solo corpo, se non metaforicamente. Potrebbe essere. La porta sì, ha questo significato. Però c'è anche. Se pensassimo una porta fatta di veli, quindi. Pensiamo sempre, spesso è facile pensare alla porta come materiali duri, fatta di materiali molto. Non attraversabile. Mentre se fosse un arazzo, una tenda, un velo, potrebbe. Per esempio, io. Come si parlava prima della, che può consentire una concentrazione in se stessi, la porta, il chiudere la porta. E io mi ricordo, per esempio, anche quando sei in intimità con una persona, io mi ricordo che chiudere la porta ha anche un senso di raccoglimento, di, cioè tutto il mondo è fuori, siamo io e te, no? Questo, quindi c'è questa funzione. Io appoggio questa interpretazione romantica. C'è questa, vero. Se poi magari c'è inverno fuori, no? Ti chiudi dentro il calduccio, no? C'è questo. Canti due canzoni di Natale. Sì, quindi forse in questo caso, se le porte fossero di veli, di veli, potrebbero consentire questa concentrazione, questo. Racchiudersi su se in se stessi con l'altro, però potrebbero anche tenere la funzione di essere comunque attraversabili. Quindi se questa, poi questa stanza fatta di veli fosse circondata comunque da fiducia verso il prossimo, diciamo, verso gli altri, potrebbe sussistere così. Basterebbero dei veli in realtà, alla fine, il massimo assottigliamento della porta, insomma, forse. Vabbè, però allora tieni il suo valore, insomma, come qualcosa che ti distanzia, cioè che ti copre, ma allora tanto vale usare una porta. Che allora, aspettate, perché adesso Marco ha parlato di una funzione, diciamo, legata al visivo, no? Perché se è un velo, no? In quel senso, no? Quindi che non mostra l'interno, l'esterno, che è possibile. Sottile. Aspetta, perché voglio parlare anche di suono a questo punto, no? E la funzione della porta, no? porta massiccia, anche quella di lasciar fuori e dentro il suono, no? Eccetera. E allora, appunto, no? una fiducia nell'altro, in chi è fuori, no? E dentro, per quanto riguarda l'attenzione, no? Attraversarla o non attraversarla in un certo momento, quei veli, ma questo può riguardare anche il suono, no? Allora, E la nostra educazione al suono, a che punto sta, no? Perché appunto, no? Usiamo molto, allora la musica non si fa in casa, si rompono i coglioni ai vicini, no? Di casa, se io studio la tromba a casa rompo i coglioni, la batteria non ne parliamo, devo andare nello scantinato, eccetera. E devo dire, ho l'impressione che sia andato aumentando, insomma, questa roba qua negli ultimi anni. Questa insofferenza al suono. Ma scusi, viceversa. No, ok. Basta, no? No, non per te, non per bloccare quello che stai dicendo, per dire nel senso a tutti, nel senso che, no, che volevo, perché mi sembra così visivamente che. Ci siamo noi qua, è come se noi stessimo no, facendo certo. Una cosa. C'è una porta! C'è una porta invisibile lì! Che non ci deve stare! E che nel senso siamo abbattiamo. Tutti ci sono qua. Perché cioè, siamo in cerchio, tipo, non siamo tipo qua come il palco e quelli che guardano, ma è tutto in cerchio, insomma. È per dire a quelli che sono arrivati da questa porta nuova. Sì, infatti. Comunque fino adesso si è vista la porta come cosa psicologica rispetto sì. agli altri, di chiusura rispetto agli altri, chiusura rispetto ai suoni, chiusura rispetto eccetera eccetera, però in effetti la cosa pratica che io, cioè senza porta potrei morire d'inverno a gennaio senza la porta, cioè, voglio vedere, io non ci sto senza la porta d'inverno a gennaio. Sì, è giusto, però lì c'è cioè, poi si innesca il discorso della serratura aperta o chiusa. Ah no, certo, chiaro, la serratura è un'altra cosa. No, sì, sì, quindi anche il caldo, il freddo, insomma, il caldo, tante funzioni, no? Tante funzioni, la casa, no? Insomma, ci sono luoghi dove ne parlavamo ieri con Marcolino, no? O con te, non mi ricordo più. Il fatto che la nostra società, qui insomma, nei paesi più dove usiamo i vestiti, ok, d'inverno, certo, d'estate, invece ci sono luoghi nel mondo dove non è necessario, è sempre abbastanza caldo da non dover mai usare, certo, i vestiti, caso, da non aver mai la necessità di una casa. In caso non ci sarebbe neanche bisogno della porta. È proprio, e quelle civiltà, quei luoghi lì hanno una civiltà che non si è portata dietro grandi appunto costruzioni, no? Nel tempo, no? Quindi reperti archeologici, no? Perché non li hanno mai creati, perché non c'è, beh, non proprio perché sono dei geni, ma perché proprio non ce n'era bisogno, perché il tempo, appunto, quello che dici è importante, no? La temperatura, cioè se tu vivi costantemente fra i 25 e i 35 gradi non hai bisogno né basta di casa né di porte, no? Sì, ti ripari dalla pioggia, ma anche se ti bagni, insomma, non è che faccia da asciughi subito, quindi è proprio tutta un'altra mentalità. No, io invece ritornerei al suono, perché noi ci teniamo, noi quelli che sono su questo palco ci tengo. E ho visto anche Giulia suonare il bicchiere prima, e che è una, no, che, beh, io lo so, è una musicista, e il suono è appunto, insomma, nella nostra società è inteso come qualcosa legato alla musica, no? Non esiste se non è musica, è rumore, ok? È rumore. E, ecco, invece, come tutte le cose, c'è una gradualità, una molteplicità, no? Enorme, no? Di questa cosa del suono, no? Molto varia, e che le porte, appunto, no? Tendono a aiutano, no? a non farci riflettere su questo. Prima abbiamo detto il suono della città dentro, fuori, no? Una cosa che mi hai detto te invece ieri sera era che, appunto, visto che, come hai già stato raccontato in precedenza, io ho rubato a casa sua, insomma, e lui se n'è andato invece nella casa San Lorenzo. L'hai buttato fuori dalla porta! Lui mi ha detto, a San Lorenzo, il venerdì, io mi sono sentito malissimo, perché mi ha detto, il venerdì sera e il sabato sera non si può dormire a San Lorenzo, perché c'è un casino che bestemmiano, cantano le canzoni romanesco, e vengo, ho detto, cioè, adesso mi sono sentito veramente come Marcolino, che è un occupante di mestiere, insomma, di casa. Vabbè, insomma, però mi ha detto una cosa, Brento, che appunto lui è interessato al suono, quindi non gli dà fastidio, cioè non gli dà fastidio, inteso come che si agita, sta male, di sentire alle 4 del mattino la gente che ancora canta, che ci frega, ma che ci importa. Ma anzi, mi ha saputo raccontare ancora cosa si canta, cioè... Beh, io ero rimasto stupito che dei ragazzi della sua età a Roma cantassero gli stornelli romaneschi. Pensavo che facessero parte delle generazioni passate, no? Non pensavo. Invece, appunto, a San Lorenzo, io non sono di Roma, ma insomma abito a Roma dalla vita, ma pensavo che, insomma, fossero... No, naturalmente ci sono i cori... Ale Roma! Tutti i cori dello stadio, no? Quelle robe lì dello stadio. Ma oltre a quelli ci sono anche gli stornelli romaneschi alle 4 o 5 di mattina. Ragazzi di 20 anni, pensavo che fossero tre, non esistessero più, no? Invece ci sono ancora. Ecco, quindi noto queste cose. Cioè, per me non è un fastidio il rumore della città, ma è un suono che anche alle 5 di mattina mi interessa alla fine. Cioè, se mi sveglia, mi interessa. Allora, ecco, no? Di nuovo la porta che invece la porta e le finestre, le doppie finestre, no? Mettono fuori, no? Il rumore della città. Cioè, o è un concerto di musica, tutto il resto è rumore, basta, non esiste, non è altro. Solo se paghi un biglietto. C'è stato tutto il Novecento. C'è stato tutto il Novecento. Se paghi, vabbè, adesso tiriamo via i soldi. Però invece, insomma, no, proprio il rumore. No, poi c'è stato invece tutto il Novecento che ci ha raccontato altro, credo. No, qualcuno ha nominato Cage prima, no? Insomma, non so chi. Tu hai nominato Cage. Nil. Nil. Vabbè, devo Marcolino? Sì, prima di chiudere volevo parlare, cioè accennare solo agli infiniti fratelli che potrebbe avere una porta, perché essendo un oggetto ha tanti oggetti che in qualche modo le assomigliano, magari si distanziano dalla sua funzione, però tanti oggetti assomigliano, e stavo notando adesso, pensandoci, come un libro in fondo come oggetto assomiglia a una porta, ha la stessa, cioè si apre, c'ha le ante, è incardinato, quindi sì, il libro potrebbe essere una forma di fratello. È il tema con cui volevo concludere. La cabina doccia, come anche, anche. Sì, c'è un tempo per dire, no. La cabina doccia. Perché ti chiudi da solo dentro. Ma la tenda della doccia. Sì, la tenda. La tenda, devi tenerla perché sono sgoccia fuori, un casino. E questo introduce proprio al motivo con cui volevo concludere. Perché il libro è conoscibile, no? Aprendolo, a parte non è mai blindato. Tranne il smemoranda, sai, quelle. Sì, vengono chiari. Però è una riflessione pregnante che ci può dare questo libro, che adesso vi introduco. E parlando di Kafka, che ha scritto questo racconto breve che si chiama Davanti alla legge. La presenza della porta nella letteratura classica possiede un'infinità di valenze e di significati simbolici. Uno fra tutti, quello del racconto di Kafka Davanti alla legge. Un uomo chiede di poter oltrepassare la porta che indica l'accesso alla legge. Una porta sempre aperta ma custodita da un usciere. L'usciere, facendosi da parte, gli dice di aspettare, gli racconta che dietro quella porta ci saranno altre porte e altre porte ancora e altri uscieri. L'uomo si siede ad aspettare e aspetta anni e anni. Diventato vecchio, semiparalizzato e ormai morente, osa porre la fatidica domanda: come mai in tutti quegli anni, se tutti affermano di aspirare alla legge, nessuno ha chiesto di entrare? E l'usciere gli risponde, chiudendo la porta era solo per te. Ora, da qui si deduce questo, cioè che le porte sono sempre collegate a qualcosa di conoscibile che deve essere protetto, quindi a segreti. La legge, tu la puoi vedere dal codice, no? Ti compri il volume, il codice civile, il codice di procedura penale, il codice di procedura civile, però è sempre inconoscibile, per cui non ha porte, è aperto a tutti comprare il volume, i volumi del codice. Anche l'universo è inconoscibile, perciò non ha porte. Tutto ciò che è inconoscibile ci è dato senza porte. Tutto quello che reca dei misteri invece reca una porta. Ma io voglio sapere, siamo davanti la porta o dietro la porta? Siamo la porta. Siamo la porta, siamo il ponte, siamo una marea di cose, ma davanti alla porta ci poniamo, dietro, davanti, dentro, fuori, sopra, sotto. Dipende di che cosa decide. Che poi il dentro e il fuori è sempre un punto di vista. Sì, esatto, il fuori può essere dentro qualcos'altro. Il fuori può essere il dentro, dentro può essere. E presuppone un coraggio per essere una porta. No, io credo. Anche iniziativa. Cambio come quello è rimasto seduto davanti alla porta tutta la vita, non ha avuto l'iniziativa di andare via per la porta. Però prima si diceva la porta e si diceva la soglia. E la soglia è la soglia, la soglia, e se non la riesci a varcare è lì, è quel punto lì che è faticoso. anche al paradiso si accede attraverso la porta. Eh? Anche al paradiso si accede attraverso la porta. Ma fare il passo, passo, è quello che è un po' faticoso e pauroso forse, no? C'era la bella frase di Peter Kacker che non ho mai capito veramente, diceva dobbiamo uscire per entrare. Rimaneva lì sospesa. Sì, che che se non esci non puoi entrare. No, quando devo trovare il gruppo del cane. You have got to get in to get out. Finiamo con la musica? Sì. Chiediamo got con... to get in to get out. La controsigla. Siamo rimasti chiusi fuori di casa perché le chiavi sono all'interno dell'appartamento nella torre. Nella toppa. Ma stasera? Quindi questa è la vendetta della toppa. Questa è la vendetta della toppa. Che rimane chiuso qua. È una barriera. Anche perché. E poi c'è la porta di Magritte. Del famoso quadro di Magritte. Una porta con una grande toppa. Dal buco della serratura si vede la chiave, perché la porta è chiusa, che sta nella stanza da letto. Come a dire, la risposta a tutti i nostri interrogativi, i nostri conflitti, le domande irrisolte, sta nella camera da letto, dove si sogna. Non dall'altra parte, dove c'è la massimalità. La chiave è nella stanza da letto, per aprire quella porta. Io non certo sempre giusto chiudersi in camera da letto per segnare. Grazie. Grazie. Emblematica.